Le profezie sono come l'olio. Quando pensi di averle in pugno, ti sfuggono. La ragione è molto semplice. Dato che il linguaggio profetico ha una valenza sia letterale sia simbolica, il difficile è comprendere la differenza. E se si sbaglia si prendono fischi per fiaschi. Poiché vi è questa problematica, i periodi di tempo espressi numericamente, citati nelle profezie, sono da prendere in senso reale o simbolico. Quando l'Eterno disse ad Abramo che i suoi discendenti avrebbero dimorato 430 in un paese straniero, questo avvenne alla lettera, Esodo 10.40, ma si può dire lo stesso per tutti i periodi di tempo profetizzati? Se prendiamo seriamente la parola di Dio, dobbiamo ammettere che se mettiamo in discussione le date o il numero di anni addotti nella Bibbia quelli appartenenti al periodo profetico, o meno, siamo nella confusione più totale. Se riteniamo simboliche le diverse età dei patriarchi vissuti prima del diluvio, Ge 5:3-27, se non è esatto il numero di anni al compimento dei quali Abramo generò Isacco, Ge 21.5, se erano solo simbolici, gli anni di carestia che Giuseppe profetizzò al faraone, Ge 41.27, se erano simbolici anche gli anni di vagabondaggio degli israeliti nel deserto, Nu 32.13, se non sono esatti le datazioni citate nel Libro dei Giudici, GD 13.1, e nel Libro dei Re, Re 2.11, se i periodi di successione al trono dei re d'Israele non corrispondono alla verità, 1 Re 22.42, e se le date nel Nuovo Testamento in riferimento alla fanciulla morta, MR 5.42, a Gesù, LC 242, alla donna curva che Gesù guarì, LC 13.11, a Enea, all'uomo che Pietro guarì, At 9.33, per non dire del periodo di 14 anni menzionato da Paolo. Ora, se invece sono esatti questi periodi di tempo, perché metterne in discussione altri solo perché appartenenti alla letteratura profetica? Infatti, quelli maggiormente messi in discussione sono i 70 anni profetizzati dal profeta Geremia in merito a Gerusalemme. Molti studiosi biblici, tra i quali Giovanni Luzzi, ritengono che questo periodo di tempo non corrisponda alla verità, ma sia una cifra simbolica. Come sempre, ho un grande rispetto per gli studiosi che hanno dedicato la loro vita allo studio della Bibbia. Ma poiché la mia fede ritiene le descrizioni bibliche corrispondono alla verità, mi sono messo a studiare questa problematica e, in questo studio, presento il mio percorso teso a verificare l'esattezza della profezia di Geremia. Il popolo di Israele era un'unica nazione fino alla morte di Salomone. Dopo si divise in due, formando il regno del nord o di Israele e il regno del sud o di Giuda. Il regno del nord fu condotto in cattività nel 721, mentre su Giuda regnarono ancora 10 re prima di subire a sua volta la deportazione. Geremia, il profeta che vaticinò anche per il regno di Giuda, iniziò a svolgere il proprio compito all'inizio del regno di Giosia. Così leggiamo parole di Geremia, figlio di Hilchia, uno dei sacerdoti che erano ad Anatot, nel paese di Beniamino. La parola dell'Eterno gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, nell'anno tredicesimo del suo regno. Gli fu pure rivolta al tempo di Jehoiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine del undicesimo anno di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla cattività di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese. Gr. 1.13. Per avere un quadro della situazione storica, occorre tenere presente che Giosia regnò dal 639 al 608 a.C. Ecco i re che regnarono in Giuda, dopo la deportazione del regno di Israele, secondo il commentario biblico, a cura di D. Guthrie e J. A. Mottier, Voce della Bibbia, 1973. Giosia, Joachaz, Joachim, Joachim, Sedechia. Geremia inizia il suo ministero di profeta nel tredicesimo anno di Giosia, il quale ha regnato dal 639 al 609, in un momento di ripresa spirituale da parte del popolo di Israele, protraendo questo compito. fino a quando gli abitanti di Gerusalemme vengono deportati dai Babilonesi, Gr 1:1-3. In questo regnò dal 639 al 609, regnò dal 608 al 597, regnò dal 597 al 586, 31 anni e non 30. Periodo, egli invita il popolo a pentirsi e ravvedersi, altrimenti l'Eterno Dio li avrebbe dispersi. Come era accaduto per il regno del nord con queste parole, poiché quando vi ho parlato con urgenza ed insistenza non avete ascoltato, e vi ho chiamati e non avete risposto, io farò con questo tempio, su cui è invocato il mio nome, e in cui riponete la vostra fiducia, con questo luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho fatto a Scilo. E vi scaccerò dalla mia presenza, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la progenie di Efraim. Gr 7:12-15. Dunque, nonostante fosse la custode del glorioso Tempio di Salomone, l'Eterno Dio avrebbe trattato la città di Gerusalemme al pari della città di Silo. A Silo era stata posta l'arca al tempo di Giosuè, e quindi si trattava di un posto molto importante dal punto di vista spirituale. Gs 18:1. La sua distruzione avvenne nel 1050, ad opera dei Filistei. All'inizio del regno di Joachim, cioè verso l'anno 609, Geremia avverte il popolo della distruzione. Così dice l'Eterno: se non darete ascolto camminando nella mia legge che ho posto davanti a voi, e prestando attenzione alle parole dei miei servi, i profeti, che vi ho mandato con urgenza ed insistenza, io renderò questo tempio come Scilo. Gr 26:16. Gli anni passano, ma il popolo continua a non ascoltare. Nabucodonosor assedia Gerusalemme e, pochi anni dopo, nel 606 porta via tutti i tesori e gli arredi del Tempio. A questo punto l'Eterno rivela a Geremia che il popolo sarebbe stato oppresso per 70 anni. La parola che fu rivolta a Geremia nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, che era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, dicendo: dal 13° anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, fino a questo giorno, sono 23 anni che la parola dell'Eterno mi è stata rivolta e io vi ho parlato con urgenza ed insistenza, ma voi non avete ascoltato e ne avete provocato ad ira con l'opera delle vostre mani a vostro danno. Perciò, poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del nord e Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, e le farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni all'intorno, e li voterò allo sterminio e li renderò un oggetto di stupore, uno scherno e una desolazione perpetua. Farò cessare in mezzo a loro le grida di gioia e le grida di allegrezza, la voce dello sposo e la voce della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando però saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, il paese dei Caldei, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità, e lo ridurrò a una desolazione perpetua. Così farò venire su quel paese tutte le cose che ho pronunciato contro di esso, tutto ciò che è scritto in questo libro e che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Infatti molte nazioni e re potenti ridurranno in servitù i Caldei stessi, e li ripagherò secondo le loro azioni e secondo l'opera delle loro mani. Gr 25:1-15. Dunque, Geremia profetizza nel quarto anno di Joachim, cioè nel 604, che il popolo di Israele sarà soggetto al re di Babilonia per 70 anni. Il fatto notevole di questa profezia sta nella predizione della esatta durata del predominio di Babilonia. Ho consultato alcuni biblisti competenti in materia e, con mia grande delusione, essi affermano che la cifra è tonda, approssimativamente corretta. Così ho fatto delle ricerche per vedere se effettivamente le cose stavano così. Innanzitutto, ho trovato che la profezia dei 70 anni è rivelata non solo a Geremia, ma viene ripetuta più volte anche in altri libri della Bibbia. 2 Cronache 36:21. Daniele 9, 2-24, Zaccaria 1-12 e 7-5. Geremia ripete la profezia dei 70 anni, 29-10, agli esuli condotti in Babilonia, annunciando che dopo questo periodo Babilonia sarebbe stata giudicata. Per me è stato difficile a questo punto pensare che fosse una cifra arrotondata. Così, in seguito mi sono messo a fare dei conti. Gli studiosi affermano che Giuda fu deportato lontano dal suo paese nell'anno 586. Israele tornò nella sua terra nel primo anno del dominio di Ciro. Feci delle ricerche e notai che Ciro regnò dal 559 al 530. Con questi dati feci il seguente calcolo. 586, l'anno in cui Israele fu deportato, meno 559, l'anno in cui Ciro iniziò a regnare, fanno 27 anni. Evidentemente mi ero sbagliato, ma non sapevo in che modo. Poi imparai che gli ebrei contano gli anni non al momento in cui un re comincia a regnare nel suo paese, ma da quando questo re regna su Israele. Dopo alcune ricerche, notai che Ciro iniziò a regnare su Israele nel 536. Quindi feci 586, l'anno in cui Israele fu deportato, meno 536, l'anno in cui Ciro iniziò a regnare su Israele. Fanno 50. Avevo fatto dei progressi, ma ero ancora lontano dai 70 anni profetizzati. Leggendo ancora, compresi che la città di Gerusalemme fu distrutta nel 586, ma era stata assoggettata già molto prima da Nabucodonosor, e precisamente da 19 anni. Sono arrivato a questa conclusione leggendo l'ultimo capitolo del libro di Due Cronache. Un capitolo determinante per questo studio che vale la pena leggere. Allora il popolo del paese prese Jehoaz, figlio di Giosia, e lo fece re a Gerusalemme al posto di suo padre. Jehoaz aveva 23 anni quando iniziò a regnare e regnò 3 mesi a Gerusalemme. Il re d'Egitto lo depose a Gerusalemme, quindi fece re su Giuda e Gerusalemme suo fratello Eliakim, a cui cambiò il nome in Jehoiachim. Neco prese invece suo fratello Jehoaz e lo condusse in Egitto. Jehoiachim aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 11 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Nabucodonosor, re di Babilonia, salì contro di lui e lo legò con catene di bronzo per condurlo a Babilonia. Al suo posto regnò suo figlio Jehoiachin. Da notare che cambia nel nome solo l'ultima lettera. Jehoiachin aveva 8 anni quando iniziò a regnare e regnò 3 mesi e 10 giorni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. All'inizio del nuovo anno il re Nabucodonosor mandò a prenderlo e lo fece condurre a Babilonia con gli oggetti preziosi della casa dell'Eterno. Quindi fece re su Giuda e Gerusalemme Sedechia, fratello di Jehoiachin. Sedechia aveva 21 anni quando iniziò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Anche egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. E non si umiliò davanti al profeta Geremia, che parlava da parte dell'Eterno. Si ribellò pure contro il re Nabucodonosor, che lo aveva fatto giurare in nome di Dio, ma egli irrigidì la sua cervice e indurì il suo cuore rifiutandosi di fare ritorno all'Eterno, il Dio di Israele. Anche tutti i capi dei sacerdoti e il popolo peccarono sempre di più seguendo tutte le abominazioni delle nazioni. L'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro, fin dall'inizio, e con insistenza, avvertimenti per mezzo dei suoi messaggeri. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo raggiunse un punto in cui non c'era più rimedio. Nabucodonosor portò a Babilonia tutti gli oggetti della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del re e dei suoi capi. Poi incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti di valore. Inoltre Nabucodonosor deportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada. Essi divennero servitori suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti 70 anni. 2 Cronache 36.1.21. Dunque, dopo la morte di Giosia elessero re Joachaz, il quale fu in carica per 3 mesi e 10 giorni. Poi il faraone Neco fece re Eliakim, suo fratello, dandogli il nome di Joachim, 2 Re 23.3.4. Mentre regnava Joachim, Nabucodonosor attaccò la città di Gerusalemme e, dopo averla vinta, condusse il re prigioniero a Babilonia. In quale anno del regno di Joachim Nabucodonosor lo fece prigioniero? In Daniele 1.1 si legge che il terzo anno del suo regno, Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme. Se Joachim iniziò a regnare nel 608, ciò significa che il terzo anno era il 605, anno in cui iniziò l'assedio alla città di Gerusalemme. Considerando che Joachim regnò 11 anni, 2 Re 23.36, se facciamo 11 anni di regno, meno 3 anni nei quali Joachim non era ancora soggetto, risultano 8 anni di schiavitù. Questi furono gli anni nei quali Joachim fu soggetto a Babilonia. Aggiungiamo gli 8 anni di Joachim agli 11 anni del regno di Sedechia, il quale fu soggetto a Nabucodonosor prima che Gerusalemme fosse distrutta, e fanno 19. Infatti, la stessa cifra la troviamo scritta in Geremia 52, 1-16. Sedechia aveva 21 anni quando iniziò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sedechia poi si ribellò al re di Babilonia. Nel 9° anno del suo regno, nel 10° mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme. Si accampò contro di essa e le costruì intorno opere d'assedio. Così la città rimase assediata fino all'11° anno del re Sedechia. Nel 4° mese, il 9° del mese, la fame era così grave in città che non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu aperta una breccia nelle mura e tutti gli uomini di guerra fuggirono, uscendo di notte dalla città per la via della porta fra le due mura, che si trovava presso il giardino del re, nonostante i caldei fossero tutti intorno alla città. Il 5° mese, il 10° del mese, che era il 19° anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Egli bruciò la casa dell'Eterno e la casa del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei che era col capitano della guardia demolì tutte le mura intorno a Gerusalemme. GR 52.116. Dopo questa lettura, possiamo fare la seguente operazione. 586, anno in cui Gerusalemme fu distrutta, più 19 anni, cioè il momento in cui Nabucodonosor espugnò la città di Gerusalemme, fanno 605. Se facciamo l'operazione 605-536, l'anno in cui Ciro emana l'editto per gli esuli dei giudei, notiamo che risultano 69 anni. Se per gli studiosi questa è la cifra tonda, approssimativamente corretta, significa che si vuole a tutti i costi trovare le cifre numeriche profetiche non corrette, dimenticando volontariamente che le date, indicanti la durata al trono di un re, non partono tutte dal 1° gennaio per terminare tutte al 31 dicembre. Il calcolo fatto mediante l'uso esclusivo delle annate complete senza tener conto anche degli eventuali singoli mesi non può essere che approssimativo. Come esempio possiamo considerare l'assedio subito dalla città di Gerusalemme durante il 9° anno del regno di Sedechia. Se Sedechia regnò dal 597 al 586, cioè 11 anni, sottraendo 9 anni al 597, risulterebbe che la città di Gerusalemme abbia subito l'assedio 2 anni, ovvero 24 mesi prima della fine del suo regno. Mentre se correttamente leggiamo che era il 9° anno, il 10° giorno del 10° mese, GR 52.4, e Z24.1, allora l'assedio iniziò non 24 mesi prima della fine del regno di Sedechia, ma bensì solo 14 mesi, omettendo di considerare i mesi. È facile perdere un anno. Inoltre, occorre tenere presente anche che non tutti i popoli hanno lo stesso metodo di datazione nello stabilire gli anni di regno di un monarca. Perciò, se i profeti hanno parlato di 70 anni di cattività, sono da ritenere 70 anni. Nessuno ha il diritto di stabilire diversamente. Ricapitolando, possiamo affermare quanto segue. Nel 606, Nabucodonosor assediò Gerusalemme. In seguito mise in catene Joachim e portò a Babilonia i tesori del Tempio. Nel 586, dopo 20 anni, i babilonesi ritornano e danno alle fiamme Gerusalemme, fanno cadere le mura e cavano gli occhi al re Sedechia. In seguito, i babilonesi deporteranno altri giudei, come leggiamo al capitolo 52 del profeta Geremia. Ma per il re Joachim avvenne un vero miracolo. Un miracolo, anche qua, narrato in modo preciso riportandone l'anno, il mese e il giorno, per confermare che ogni evento e data storica è da prendere alla lettera. GR 52, 29-34. Nel 536, Ciro ordina ai giudei di tornare in Palestina. I 70 anni profetizzati da Geremia, per volere di Dio, si adempirono alla lettera. Fu questa la fine del regno terreno della stirpe Davide, durato 400 anni. Come si può ben notare, non è facile verificare i momenti profetici, ma il cristiano che accetta letteralmente le profezie e le loro date sarà edificato nel constatare come i piani di Dio siano sempre esatti. Una fede ostinantico testamento A è una fede premiantico testamento A. Aprile 2011. Ellero.